Poi ebbi una visione. Ecco, una porta si aprì nel cielo e la voce che prima avevo udita parlarmi a somiglianza di tromba disse: «Sali quassù affinché ti mostri ciò che dovrà accadere in futuro». Improvvisamente mi trovai in estasi ed ecco, un trono stava eretto nel cielo e sul trono uno stava seduto. Ora, colui che sedeva era simile nell'aspetto a Diaspro e Cornalina, mentre l'arcobaleno che era intorno al trono era simile a una visione di smeraldo. Disposti intorno al trono erano 24 seggi, e sui seggi vidi seduti 24 signori. Indossavano vesti bianche, e sulle loro teste avevano corone d'oro. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. 7 lampade ardenti bruciavano davanti al trono. Sono i 7 spiriti di Dio. Si estendeva davanti al trono un mare vitreo dell'apparenza di cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono v'erano 4 viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Ora il primo vivente era simile al leone, il secondo vivente era simile a vitello. Il terzo vivente aveva aspetto d'uomo e il quarto vivente somigliava ad un'aquila in volo. E i 4 viventi, muniti di 6 ali ciascuno, avevano occhi tutto intorno e al di dentro. Senza sosta ripetevano notte e giorno: «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è, che viene». E ogni volta che i viventi rendevano gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive per i secoli dei secoli, i 24 signori si prostravano davanti a colui che siede sul trono e facevano adorazione a colui che vive per i secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Degno sei, nostro Signore e Dio, di ricevere gloria, onore e potenza. Tu che hai creato tutte le cose, le quali non esistevano e per tuo volere furono create».